Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È sabato, sono le 21, ciao Chiara, questo è Mebius. E tocca a noi, ciao Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dove andiamo all'inizio? Andiamo su Marte, in Etiopia, quasi. Cioè c'è un angolo di Marte in Etiopia, questa è una scoperta bellissima. Dove ci porterà questa rivoluzione digitale, l'Internet of Things in particolare? Stanno arrivando degli aperitivi delle cose. E poi concludiamo con la descrizione di un touchbook, intanto che cos'è e poi come ci spiega a vivere meglio. C'è un film del 1978, Capricorn One, dove c'è raccontata una missione fasulla su Marte. E probabilmente, o forse no, non lo sappiamo, è stata girata o potrebbe essere stata girata in Etiopia. Soprattutto la prossima. La notizia è questa: c'è un angolo di Marte in Etiopia, ovvero esiste un habitat unico al mondo, che adesso andremo a descrivere, che riproduce in qualche modo, assomiglia molto a quello che è l'habitat marziano, quindi anche con gli elementi di gas che sul suolo marziano noi pensiamo ci siano. Comunque sappiamo che ci sono certamente le temperature. Esattamente. Allora, è appena tornata da lì, non da Marte ovviamente, dall'Etiopia, Barbara Cavalazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Barbara. Lei buonasera è geobiologa, ricercatrice dell'Università di Bologna. Ho detto bene, Barbara, lei è appena tornata da questa missione, ovviamente non da Marte ma dall'Etiopia. Precisamente come si chiama il posto dove siete stati? Ci sono appena rientrata da questa missione in un posto meraviglioso che abbiamo campionato, si chiama Cratere del Dallol, che è un cratere, quindi un vulcano che si trova nella pianura della Dankalia in Etiopia, e siamo vicini al confine con l'Eritrea, e l'Eritrea con l'Etiopia, Gibuti e il Sudan rappresenta quello che è noto a molti come Corno d'Africa. È un luogo molto particolare da un punto di vista geologico, è infatti ben noto tra virgolette a vulcanologi, geofisici, perché fa parte del rift africano, quindi questo luogo del nostro pianeta dove le forze interne della Terra dividono le placche continentali, cercando di creare, creeranno in futuro, in un lungo futuro geologico, un nuovo sistema oceanico. Ed è anche famoso e noto questo luogo ai paleoantropologi, perché lì sono stati scoperti i primi resti di ominidi, la famosa Lucy, già nel 1974. Quindi esatto. È già famoso. Ma adesso, con questa ricerca, stiamo cercando di farlo diventare noto alla comunità degli astrobiologi. Bello, astrobiologi, perché? Perché in realtà in questo angolo particolare dell'Africa e del nostro pianeta, perché questo posto ha delle caratteristiche uniche nel nostro pianeta, si vengono a creare delle concomitanze di effetti geologici e biologici che potranno, con questi studi che porteremo avanti, essere confrontati con quelli del pianeta rosso, quindi di Marte, e quindi questo posto potrebbe rappresentare un analogo terrestre per Marte. Quindi noi cercheremo la vita in questo posto per confrontarlo con le caratteristiche di Marte e magari poi confrontare tracce, potenziali tracce di vita. Ecco, ma sì. Barbara, come è fatto? Come sono le temperature? Come sono queste caratteristiche che lo rendono unico? Allora, abbiamo già temperature medie annuali di circa 40 gradi, quindi significa medie annuali giorno e notte almeno 40 gradi. Durante il giorno queste temperature, per esempio nelle stagioni diciamo estive, possono arrivare a sfiorare anche i 60 gradi. Perché fa così caldo? Da un lato siamo a latitudini particolari, quindi è già una situazione arida di per sé, ma abbiamo anche un contributo di calore, di riscaldamento che viene dal sottosuolo. Siamo appunto in una zona del rift dove c'è intensa attività magmatica legata alla geologia, e quindi questa zona resta sempre molto calda. Certo. Lei diceva è un vulcano, non è un vulcano attivo, quindi diciamo che la lava non fuoriesce. La lava non non fuoriesce, in realtà è una, c'è un'attività vulcano freatica, significa l'attività vulcanica è profonda, cioè in profondità, sotto i sedimenti, e quello che avviene in superficie è diciamo l'effetto indiretto di questa attività magmatica, ma abbiamo in superficie emissioni di tutto quello che è legato a questo riscaldamento profondo, vapori di CO2, vapori di anidride carbonica, ma anche gas tossici, come per esempio anidride solforosa, piuttosto che emissioni di vapore di cloro, e anche le acque che arrivano in superficie, che sono appunto riscaldate in profondità, sono acque particolarmente acide perché hanno appunto il contributo dei sedimenti che attraversano, che sono dei depositi di sale, e anche un legame con l'attività magmatica profonda. Queste acque arrivano in superficie ricche di ferro, ricche di zolfo. Senta Barbara, ma in un posto così non è mica facile camminare e starci. Sì, ha detto un posto stupendo, però insomma sembra un posto infernale. Io per quello che so che quando ci sono 60 gradi, per esempio, noi non è che possiamo stare lì più di qualche minuto. Ci si va nelle stagioni fresche, tra virgolette, dove comunque le temperature si aggirano durante il giorno sui 43, 45, 46 gradi. Un giorno abbiamo registrato 54 gradi a mezzogiorno, ecco. E si lavora 3-4 ore al giorno nelle ore presto la mattina. Infatti i locali, gli Afar che abitano questa zona, sono delle popolazioni nomadi, ovviamente che non permanenti, quindi che si muovono proprio perché alcune zone sono veramente proibitive per la vita, chiamano questa zona con un termine che è un po' l'equivalente di cancello l'entrata per l'inferno. Dantesco, certo. E beh, infatti, da come l'ha descritto... E in Afar addirittura, siccome le acque in risalita da questa attività idrotermale sono estremamente acide, in Afar, nella lingua Afar, Dallol, ha un equivalente, il significato ha un equivalente di qualcosa tipo disciogliere. Avevano individuato tutto. Senta, ma il terreno è cos'è? Sabbioso oppure duro? In realtà la superficie in cui noi camminiamo sono delle distese di sale, infatti questo monte Dallol che si è formato una trentina, quarantina di anni fa, si imposta su questa piana di sale, quella piana di sale della Dankalia, famosa per le caravane di sale che già nei tempi storici commerciavano il sale. E senta Cavalazzi, questa caratteristica di essere appunto molto simile a quello che ci aspettiamo, insomma quello che è l'habitat marziano, voi siete stati lì, avete raccolto campioni, avete fatto analisi, ora siete tornati, ovviamente c'è un buon lavoro di ricerca da fare, ma che cosa vi aspettate di trovare? Allora, abbiamo raccolto una serie di campioni che ovviamente adesso saranno analizzati. Adesso si tratta di trovare in questi campioni di rocce, di questi posti così, chiamiamoli estremi, tracce di vita. Ovviamente che tracce di vita ci aspettiamo di trovare? Degli organismi estremofili, degli organismi microbici capaci di poter sopravvivere, ma meglio dire vivere, perché sono adattati a queste condizioni estreme. Non ho detto che queste acque in superficie che formano queste pozze di colore verde hanno temperature comunque alte, ci aggiriamo intorno agli 80-100 gradi di temperatura. Diciamo che non si prestano per le terme, però insomma. No, sicuramente. Quindi Cavalazzi, noi aspettiamo i vostri risultati, però la cosa che vogliamo dire è che lei ci ha gentilmente concesso delle foto di questo posto così spettacolare, quindi tutti gli ascoltatori potranno trovarlo sul nostro blog su www.radio24.it già poco dopo l'essere andati in onda, e quindi noi la ringraziamo e le auguriamo davvero una buona ricerca. Grazie, arrivederci. Arrivederci. E adesso ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo dopo le informazioni sul traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto per parlare di certe cose bisogna andare da quelle che le combinano, quelle che stanno a monte. Poi qui parliamo di cose internet delle cose, mi viene da dire. Ecco, quindi cose anche piuttosto sofisticate da capire, o forse no. O forse no. Ecco, perché in realtà ci circondano. Ma c'è dentro quindi... tutto e di tutto. Esatto. Quello di cui vogliamo parlare sono questi 10 webinar. Che cosa sono i webinar? Sono degli incontri che si tengono in rete, che verranno mandati in streaming e con la possibilità anche di interagire con il pubblico che li segue, quindi per chi fosse interessato, adesso insomma vi raccontiamo di che si tratta, per chi fosse interessato poi vi spieghiamo come ci si può iscrivere come gratuitamente. Ci si può iscrivere. L'evento si chiama L'aperitivo delle cose, inizierà lunedì 29 febbraio, quindi dopodomani, con il primo tema che è Smart Home, quindi tutti i device che noi possiamo avere in casa per avere così una vita casalinga più intelligente, più mi viene intelligente da dire. Con più servizi. Poi andranno avanti fino a giugno con diversi ovviamente altri temi, si parlerà di sanità, di agri-food, di industria 4.0, di smart city, insomma chi ne più ne ha più ne metta. Il digitale è pervasivo. Sono ovviamente gratuiti, richiede diciamo l'iscrizione, quindi poi sul nostro blog noi metteremo il link, se no vi daremo la possibilità alla fine dell'intervista di capire come poter iscriversi. Intanto qui abbiamo un ospite che lunedì racconterà. Terrà il primo webinar, Carlo Parmegiani. Buonasera Parmegiani. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera. Allora io all'inizio dicevo, per parlare di certe cose a un certo momento bisogna andare da quelli che le combinano. Lei è responsabile per tutta l'area IoT, quindi Internet of Things, di Intel per l'Italia. E certo Intel è fortemente coinvolta in tutto questo processo e quindi ogni tanto ha senso chiedere a voi insomma che determinate i fatti in questa rivoluzione digitale che cosa diavolo ne pensate. Allora qui si sta parlando appunto di 50 miliardi di oggetti che saranno connessi attraverso l'internet delle cose e in particolare certo la casa è uno di quei luoghi che maggiormente potrebbero essere interessati da questa rivoluzione digitale. Ma lei che sensazione ha? Cioè non è che ci stiamo raccontando una cosa tremenda, un grande fascino, ma che poi non sarà così. No, interessante. No, io credo che come sempre la tecnologia ha successo quando la tecnologia aiuta a vivere meglio. E lo spirito proprio dell'internet delle cose e la grande trasformazione che sta succedendo nell'industria di questi tempi è proprio dovuta al fatto che la digitalizzazione sta radicalmente cambiando il business tradizionale con i nuovi business che stanno arrivando. Lei menzionava i 50 miliardi di device che sono collegati, che saranno collegati nel 2020 a internet per fare che cosa? Le cose più svariate. Diciamo che oggi ancora molto spesso non sappiamo dove andremo a finire con tutte queste cose. In particolare se noi pensiamo solo alle nostre case, proviamo a pensare la nostra casa che si trasforma e diventa qualcosa di più semplice e facile da usare, ma da un punto di vista della sicurezza nella casa, per cui con questi oggetti possiamo maneggiare la sicurezza, da un punto di vista di qualità dell'aria all'interno della casa, altre di quelle cose che sicuramente succederanno, piuttosto che invece l'automazione tradizionale o l'ottimizzazione per la parte dei consumi. I consumi sono fondamentali in questo nostro mondo perché dobbiamo provare a risparmiare per vivere tutti meglio. Ecco, io penso che questi oggetti ci aiuteranno a ottimizzare i consumi, perché naturalmente quando far andare una lavatrice, una lavastoviglie, nel momento in cui l'energia si paga di meno e tutte le volte che gli utenti hanno un beneficio, a quel punto scatta la magica diciamo formula per cui questi business decollano. Riescono a prendere. Quindi uno dei settori è sicuramente l'efficientamento energetico, anche la possibilità in qualche modo di regolare il termostato affinché appunto non ci siano sbalzi di temperatura eccessivi e inutili anche. Tutta questa parte qui sulla quale siamo molto sensibili. Quello che tu dici è la regolazione fine, no Parmegiani? Cioè non quella un po' grezza. Io posso riuscire proprio durante la giornata a cambiare tante volte i parametri, per esempio se sono a casa in un weekend, e questo genera degli enormi risparmi. O la casa lo fa da sola. O anche. La casa lo fa da sola, ovviamente. Ma non solo, c'è proprio un discorso di semplicità d'uso. Affrontando diciamo la tecnologia oggi, la tecnologia ha successo quando la tecnologia è facile per l'utente. Qui ci stiamo rivolgendo ai milioni di persone che vivono nelle case. Non stiamo parlando con delle persone che hanno specificatamente una competenza tecnica, anche se oggi da un punto di vista di utilizzatori tutti ci stiamo un po' specializzando, perché tutti ormai facciamo un po' di programmazione con il nostro smartphone, con il nostro televisore, con il nostro... Ecco, però l'evoluzione di questa cosa ci porterà magari a controllare tutte tele device che avremo nella casa, ma anche i media device che abbiamo dai televisori alla musica, con una singola applicazione. E se, quante volte vi è capitato di non utilizzare, che ne so, a suo tempo un videoregistratore, ma piuttosto anche un semplice regolatore della temperatura della casa perché magari era troppo complicato da programmare? Mentre invece queste tecnologie e affacciarsi a questo nuovo mondo in realtà ti consente di fare tutto con un'estrema semplicità, anche perché se non sono semplici non volano. E mi è capitato di recente di riflettere anche con altri su questo aspetto. Dobbiamo vedere queste tecnologie anche quando si rivolgono a dei momenti della vita particolare e a delle condizioni. Per esempio, noi ormai viviamo in aree metropolitane dove la percentuale dei single è del 35%, e qui c'è il famoso caso del single che si storta la caviglia del o della single. A quel punto uno per una settimana, il famoso colpo della strega per esempio, ecco, e se ho la possibilità di governare alcune cose della casa, tirare su e giù le tapparelle, ti facilita certamente la vita, cambia completamente la cosa. Non parliamone poi se uno ha un acciacco che magari dura qualche mese, le cose qui cambiano, no? Assolutamente, ma non solo, tenete presente anche che ad esempio da un punto di vista di se parliamo di efficientamento, sicuramente la parte della salute è una parte interessante, soprattutto per, se guardiamo la nostra Europa, diciamo dei paesi più industrializzati, ha una popolazione che sta invecchiando e inevitabilmente invecchiando poi si ha bisogno di più supporto, e naturalmente questo può succedere con un piccolo pezzo di tecnologia che da sola può riconoscere, che ne so, che non ci muoviamo più in casa da più di 2 ore, magari lanciare l'allarme ai nostri figli o a qualcun altro, piuttosto che invece fare dei controlli da casa, e questo migliora la qualità della vita, perché alla fine uno non deve fare necessariamente delle code per andare a fare questi controlli. Per cui io la vedrei un po' proprio da un punto di vista un po' più olisticamente, e guarderei proprio le opportunità che queste cose ci offrono. E chiaramente oggi siamo agli inizi, per cui mancano ancora un po' di cose. Sì, vediamo poco. Come dice lei, insomma, siamo agli inizi, ma gli scenari si aprono, tanto che insieme a lei lunedì ci saranno anche addirittura compagnie assicurative che utilizzeranno probabilmente i sensori, delle sorte di scatole nere per capire gli incidenti domestici. Quindi diciamo che scenari che si allargano veramente a perdita d'occhio. Allora, noi ricordiamo che, insomma, chi fosse interessato può iscriversi a questi webinar gratuiti su IOETV, IOE sta per Internet of Everything, quindi IOETV.it. Nella home page trovate tutte le informazioni per accedere ai webinar anche con Parmegiani. Intanto grazie. Arrivederci, grazie, Parmegiani. Un piacere, grazie, grazie. Adesso dentro i loro tablet gli mettiamo il giochino, così loro giocano e imparano a mangiare bene e una vita più sana. Ecco, non è proprio solo un giochino, ma è un touchbook, di cui adesso racconteremo tutte le caratteristiche e che cos'è un touchbook. In questa app, chiamiamola così, che si chiama Cambio Stile, e con noi c'è un grande ritorno, una nostra collega, giornalista scientifica e anche grande collaboratrice di Mebius per tanti anni. Benvenuta Barbara Galavotti. Grazie, bentrovati. Ciao Barbara. Allora Barbara, è un lavoro che tu hai seguito, è costato tanta fatica, e da chi è promosso? Sì, è un grosso lavoro che è stato voluto dal MIUR in occasione degli Expo, quindi dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e che è stato realizzato un porto scientifico e operativo del Policlinico Umberto I di Roma, in particolare con il gruppo che si riferisce alla cattedra di Andrea Lenzi, che è ordinario di endocrinologia. Allora, avete realizzato un touchbook che si chiama Cambio Stile. Intanto, Cambio Stile, che stile? Beh, diciamo che ognuno ha il suo stile, ma non tutti gli stili hanno gli stessi vantaggi. E quindi Cambio Stile vuole essere uno spunto di riflessione, di incoraggiamento verso l'idea di adottare degli stili di vita che sono sani e che fanno stare meglio. Ecco, quindi due filoni principali ci sono all'interno, vengono seguiti all'interno di questa applicazione. Uno è quello dell'alimentazione, ovviamente sviluppato, adesso ci racconterai come, e uno invece è quello dell'attività fisica. Assolutamente sì, e il Touchbook si rivolge a due pubblici diversi, infatti è realizzato in due versioni, quello dei bambini dai 6 agli 11 anni e quello dei ragazzi dai 12 ai 17. Gli adolescenti che sono un po' diversi ovviamente, hanno delle esigenze molto diverse. Sono molto diverse sia dal punto di vista della comunicazione, quindi quali caratteristiche deve avere un racconto, un'attività multimediale per coinvolgerli, sia anche dal punto di vista delle esigenze del fisico, delle attività che svolgono, dei loro bisogni. Senti, Touchbook, allora touch nell'universo informatico sappiamo un po' tutti cosa significa. Tocca, tocca. Ma Touchbook vuol dire che si tocca lo schermo e ci si naviga così o c'è qualcosa di più? Si tocca lo schermo, ma diciamo succedono molte cose diverse. Il Touchbook non è semplicemente un oggetto da leggere o su cui vedere delle belle immagini, far scorrere delle belle immagini, selezionare dei testi e quant'altro. È veramente pensato come un oggetto in cui possono essere integrati molti diversi tipi di comunicazione. Quindi ovviamente testo, ovviamente immagini, anche filmati, ma anche proprio dei piccoli giochi, dei test, dei modi per mettersi alla prova, delle piccole sfide. È in un qualche modo un qualcosa che vuole coinvolgere chi usa questo supporto, non solo dal punto di vista intellettuale, ma dal punto di vista emotivo, in una maniera più totalizzante. È uno strumento destinato ai ragazzi e ai bambini, quindi non è uno strumento di educazione, se vogliamo, ma proprio uno strumento di comunicazione, giusto? Uno strumento pensato per i ragazzi e per i bambini. Questo non vuol dire che una mamma o anche un adulto, un fratello maggiore, certo, un amico non possa, diciamo, divertirsi a usarlo. Sicuramente non è uno strumento didattico, ma è uno strumento che in qualche modo può essere utile nello svolgimento di qualche tema scolastico, ma il suo principale utilizzo è quello di essere usato con piacere. Quindi, come tutti gli strumenti di divulgazione ben funzionanti, dovrebbe essere qualcosa che si utilizza per il piacere di utilizzarlo e che al contempo fa riflettere su qualcosa che è utile. Va bene, allora Barbara, ricordiamo per chi volesse appunto scaricarlo sul tablet, che per i ragazzi e per i bambini è certamente uno strumento altamente conosciuto. Allora, Touchbook, quindi touch come toccare, book come libro, Cambio Stile è il nome dell'app. Perfetto. E la cosa che forse potremmo sottolineare è che è un'app totalmente gratuita. Hai ragione, l'abbiamo dato per scontato, ma ovviamente è un'informazione fondamentale. Importante. Grazie, okay, Barbara. Grazie Barbara, buon lavoro. Grazie a voi. Va bene, ci giocheremo anche noi, ma noi sì, mangiamo eh? Abbastanza bene. Anche dai, se noi siamo grandicelli per il target di questo Touchbook. Vabbè, comunque, per oggi purtroppo è tutto e noi vi rimandiamo ovviamente sul nostro blog per tutte le integrazioni certo, e i fuori onda su radio24.it e sui nostri social network. E niente, ci sentiamo settimana. A tutti e a tutte.